Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Caduta libera è il nuovo libro di Nicolai Lilin pubblicato da Einaudi. Lilin era diventato famoso l'anno scorso con il suo primo romanzo, Educazione siberiana, nel quale raccontava la sua infanzia e la sua giovinezza nella Transnistria, una regione dell'ex Unione Sovietica che si era proclamata autonoma. Qui si era creata una comunità che Lilin definiva di criminali onesti. Onesti perché le loro azioni erano giustificate dal fatto che erano una reazione al regime che li opprimeva. Quel romanzo diventerà un film, le riprese di Gabriele Salvatore si inizieranno a settembre. Ma ora Nicolai Lilin è in libreria con un altro romanzo, appunto Caduta libera, che se possibile è ancora più duro del precedente. Ci racconta la sua esperienza da militare nell'esercito russo, inviato in Cecenia per quella che Mosca definiva un'operazione antiterrorismo. C'è chi lo ha accusato di essere un assassino. Lilin invece in questo libro spiega che cosa accade nella mente di un uomo che è obbligato, che combatte una guerra. Racconta l'orrore della guerra e lo fa al di là delle speculazioni e delle strumentalizzazioni politiche. Lo fa come testimone che non ama l'ipocrisia. Oggi Nicolai Lilin vive a Torino, ha una moglie, un figlio, prova a vivere una vita normale, ma quello che è stato e quello che ha vissuto ovviamente hanno lasciato il segno, come ci racconta in questa intervista. Tutto quello che è accaduto io lo racconto da prima persona, perché di questa guerra si è parlato abbastanza. Qua in Occidente il 90% di informazioni che ho sentito di questa guerra sono o false o strumentalizzate, anche in Russia è così. Io ho nascosto i nomi, i posti, i tempi e tutto, però ci tenevo di raccontare questa storia dal punto di vista di chi l'ha fatta, di chi l'ha vissuta. Nel mio libro non troverete giustifiche o condanne. Nel mio libro si racconta la situazione, si racconta come si vive la guerra, che cosa si sente facendo la guerra, che cosa si diventa facendo la guerra e cosa succede dopo, quando si ritorna da guerra. Che cosa si diventa facendo la guerra? Chi non l'ha mai fatta potrebbe pensare l'uomo non è più un uomo. Tu invece che la guerra l'hai fatta e che poi in questo libro la testimoni, che cosa pensi? Beh, uomo è sempre uomo e questo è più tragico della situazione. In guerra semplicemente persone che attraversano la situazione molto estrema, persone che si dedicano ogni giorno al lavoro molto duro, molto difficile, affrontano una grande tragedia, ma soprattutto personale, perché chi combatte la guerra, bisogna ricordare sempre, chi combatte la guerra innanzitutto combatte contro se stesso e poi dopo contro un nemico, contro, non lo so, contro magari qualcuno di comando corrotto e altre situazioni ci sono possibili e impossibili in guerra. Però innanzitutto si fa la guerra contro se stessi, per cui persone che combattono la guerra diventano puri. Perché combattendo ogni giorno se stessi si diventano puri, oppure impazziscono. Quindi chi ha passato la guerra e non è impazzito, non è diventato tossicodipendente, non è diventato un criminale, non è diventato violento, è diventato semplicemente una persona che riesce a cogliere sensazioni e riesce a vedere nelle situazioni umane qualcosa che gente della società pacifica non riesce a cogliere, non riesce a vedere mai. Per questo è più terribile esperienza della guerra e confronto con la vita pacifica quando la guerra finisce. Questa è la più terribile esperienza che si porta dalla guerra. E anche di questo io racconto nel mio libro. Prima dicevi che anche noi giornalisti abbiamo dato una visione falsata di quello che era la guerra in Cecenia, l'operazione terroristica in Cecenia. Puoi farci qualche esempio in che cosa proprio l'informazione è stata sbagliata? Le cose non erano così. Sì, innanzitutto il diritto di raccontare la guerra può solo o chi la fa in prima persona oppure chi non ha convinzioni politiche e non sta da una parte o dall'altra. La guerra, bisogna sapere che la guerra è un conflitto più estremo che noi umani riusciamo a procurare contro noi stessi. All'interno di questa situazione non esiste più convinzione politica, non ci si crede più in niente. Per cui quando io sento banali frasi, come ha detto il presidente americano, che noi siamo buoni e loro sono cattivi, queste cose qua che crea tra l'altro giornalismo, giornalismo corrotto, è normale, è una cosa moderna. Beh, verso la situazione cecena io preferirei che non parlassero proprio. Ci sono tanti che hanno parlato in maniera in modi diversi. C'è qualcuno che dice che i russi compiono genocidi e questo è sbagliato e non è vero. C'è qualcuno che attribuisce all'esercito russo i crimini di atrocità di disumane, dimenticando o non sapendo che cos'è la guerra. Che la guerra non può avere morale, non può essere umana, non ci sono pallottole che fanno bene e persona diventa una bestia. E quindi quando tu mi metti in condizione della bestia, io faccio gli atti di bestia. È inutile che poi dopo con me fanno intellettuali, fanno pacifisti, ma io queste cose non capisco, questi discorsi. Per cui il giornalismo ha rappresentato la guerra raccontandola attraverso gli occhi di società pacifica ed è sbagliato, perché se tu vuoi raccontare la guerra devi andare lì in prima linea, devi stare insieme con la gente, prova a sparare a qualcuno. Io ho parlato con alcuni giornalisti che scrivevano cose pesanti in Russia, tentavano di scrivere cose pesanti sull'esercito e credevano che fanno un bene alla società e che lottano per diritti umani. Io gli ho detto: ragazzi, io non ho niente contro di voi personalmente, contro il vostro impegno nella società civile e nell'umanità in genere, però prima di scrivere e di dare assassini a gente come me, andate a uccidere, provate a uccidere, venite in Cecenia, diventate amici di un reparto operativo, vi portano in montagna, ti danno a sparare qualche ceceno, quando tu uccidi un uomo lo vedi cadere, poi dopo parliamo. Per una persona che ha fatto la guerra come te, come si fa poi a tornare ad un contesto normale? Beh, innanzitutto non si diventa normale, non si ritorna, perché bisogna anche capire che io non sono andato a fare la guerra a 30 anni o 40 anni, io sono andato a fare la guerra a 18 anni quando si forma un uomo, quindi io adesso ho mentalità completa, sono militare io, continuo di esserlo, purtroppo è così, è la mia vita, non posso fare niente. Difficile di inserire la tua mentalità militare all'interno della società pacifica, per cui è impossibile che il mondo pacifico ti cambia, non ti cambia più niente, tu sei rimasto quello lì. Cosa difficile è di affrontare le semplicità, le banalità quotidiane, di andare al cinema, vedere la gente sorridere, educare i tuoi figli, avere i rapporti, queste cose qua. Io l'ho superato abbastanza bene perché mi ha aiutato il fatto che ho intorno a me persone che mi vogliono bene. Mi sono dedicato alle situazioni che mi piacciono, alla cultura, adesso alla letteratura. Questo aiuta minimamente, ma non è una soluzione totale, perché soluzione totale non esiste. Tu non puoi diventare un altro, tu sei quello e basta. Per cui devi abituarti che ogni volta, una volta, due volte a settimana, sogni di essere lì. Qualche volta quando sei troppo stanco ti arrivano i fischi, i suoni, quindi ti arrivano proprio voci da quel posto. Poi ci sono tante altre situazioni che ti riportano sempre a quell'esperienza. Mangiare un cibo, sentire un odore che ti sembra che l'hai sentito in quel posto, o un rumore di una macchina che ti sembra un blindato che si è acceso vicino a te, è acceso il motore. Questa cosa per un secondo ti riporta in quella situazione. Io non la ricordo male, a volte io sento nostalgia, a volte io dico anche nelle situazioni in cui io mi arrabbio o nelle situazioni difficili che io attraverso qua, io dico sempre che vorrei tornare in guerra perché ero meno agitato e lì ero capace di controllare meglio me stesso, invece qua mi lascio andare. Per cui una cosa difficile da capire per chi non l'ha fatta, è difficile a raccontare per chi l'ha fatto alla gente che non arriverà mai a capirti fino in fondo. Per farli capire, per farli sentire, io ho scritto questo libro. Ho cercato di raccontare soprattutto, come detto prima, sensazioni, perché mettendo il lettore in quella situazione lì, se io ho riuscito a farle sentire almeno 5% di quello che ho sentito io, credo che il mio lavoro è andato bene. E questo era Nicolai Lilin, autore di Caduta Libera, pubblicato da Einaudi. Prima di chiudere vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, dove potete scaricarlo in formato MP3, ma trovate anche il podcast. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.